Con Michela Murgia, la scrittrice Michela Murgia, per parlare dello spettacolo teatrale Quasi Grazia, dal 30 gennaio al 4 febbraio in scena al Teatro India a Roma. Michela, buongiorno. Buongiorno. Ti chiedo subito di cosa si tratta, cos'è questa operazione? È un'operazione che vuole restituire un po' di carne, di sangue, di vita a Grazia Deledda, per troppo tempo un'icona anche triste, se vogliamo, e dimenticata della letteratura italiana. Non dimentichiamo che non è solo l'unica donna che abbia mai ricevuto un premio Nobel in Italia, ma è stata anche per molto tempo marginalizzata dalla stessa critica italiana. Marcello Foïs ha voluto fare un gesto d'amore verso questa madre letteraria, anche sarda, e provare a restituire la donna. Ha pensato che io potessi interpretarla, io mi sento molto onorata di avere questa responsabilità. Devo dire che per me è stata anche un'occasione per iniziare un percorso di riscoperta del lato più intimo di Grazia Deledda. Come avete pensato la messa in scena? Ci siamo tenuti all'inizio sulla costruzione drammaturgica di Foïs stesso, che in questo libro Quasi Grazia ha già scritto un romanzo in forma di teatro, ma Veronica Cruciani ha creato delle intersezioni più oniriche che si radicano di più nelle novelle di Grazia Deledda, che aveva un mondo gotico, fantastico. Non ho mai capito perché l'hanno messa nel verismo, questa magnifica della sua scrittura, assomiglia molto di più che non a Verga, ecco, come modello di immaginario. Oh, Michela, qual è il tuo rapporto ideale, letterario, umano con Grazia Deledda? Di grande riconoscenza, perché è una donna che ha fatto una rivoluzione senza i termini della rivoluzione, direi quasi una rivoluzione gentile, anche se poi ha forzato tantissimi cancelli. Quando lei ha scelto di scrivere, nessuna donna veniva nemmeno scolarizzata. Lei stessa è arrivata al Nobel con la quarta elementare, che la famiglia, per grazia del cielo, decise di farle ripetere 2 volte perché potesse studiare un anno in più addirittura, quindi non la quinta, ma la quarta 2 volte. Questo, diciamo, è un messaggio di riscatto per tutti che in condizioni di marginalizzazione e con poche risorse si ritrovano con un sogno enorme. Grazia Deledda il suo sogno lo ha realizzato, e in questo senso è un modello per tutti. Senti, delle sue pagine, quali sono gli elementi qualificanti che apprezzi e ami? Senza dubbio, essendo io una devota del fantastico, questa idea di costruire una realtà superiore, perché poi il cosiddetto fantasy è questo, cioè realisti di una realtà superiore. E Grazia Deledda ha sempre visto le figure fantastiche della mitologia sarda al pari di quelle tangibili, quindi questo è un portato che mi sento di abbracciare. E poi certamente questa sensualità sempre presente nelle sue pagine, c'è molto erotismo, c'è la dimensione dei sensi è dominante, va di pari passo con quella della natura. L'idea della sua icona di Vecchina con i capelli bianchi, sempre composta, obbediente a quella che era l'estetica primo novecentesca dentro la quale la inserivano, non ha niente a che fare con la sua scrittura, che invece è un'immersione nel tattile, nella parte più ferina anche dei nostri istinti. Cosa ha rappresentato per te il metterti in scena? Uno sforzo enorme perché io non sono un'attrice e non intendo ripetere l'esperienza, non perché non sia stata bella, ma anzi è stata bellissima, totalizzante, bisogna avere uno spirito missionario per farlo come mestiere. Io devo dire grazie in questo senso a Veronica Cruciani che ha saputo tirare fuori quello che potevo dare a questo personaggio, ma soprattutto al resto della compagnia, Marco Brinzi, Valentino Mannias e Lia Careddu, che hanno accettato da professionisti di essere affiancati da una persona che non aveva una competenza di mestiere, ma ne aveva un'altra, che è quella appunto di essere una scrittrice, di essere sarda e di vivere molto fortemente il rapporto con la scrittura di Deledda e di Foïs. Quindi per me è stata anche un'occasione per riscoprire il corpo. perché noi scrittori siamo fatti tutti di parole, se dobbiamo dire 10 cose troviamo 10 parole, in teatro evidentemente se devi dire 10 cose 9 le direi col corpo, e io questa cosa non la sapevo fare, tuttora non la so fare, ma dentro lo spettacolo il modo per farmela fare lo hanno trovato. Senti, un'autrice, un autore sardi, che mettono in scena un'autrice sarda con un cast sardo, una produzione Sardegna Teatro, è evidente un'identità isolana forte. In parte sì, ma in parte no, nel senso che volutamente abbiamo scelto una regista che sarda non è, che appunto è Veronica Cruciani, perché non volevamo che fosse troppo introflessa, che risultasse un'operazione etnica, diciamo, di appartenenza identitaria, non è così. Anche Palmiro Madesani ha voluto che fosse appunto continentale, come continentale era Palmiro, e che questa estraneità al mondo di Deledda si vedesse tutta. Credo che la storia di Grazia Deledda sia universale e, come tutte le storie universali, spesso parte da un punto geolocalizzabile e considerato marginale. Quando Joyce scrisse Gente di Dublino, scriveva del mondo intero e partiva dal suo villaggio. Oh, Michela, non è la prima volta che lavori con Veronica, e com'è il vostro rapporto professionale? Raramente ho trovato un'affinità intellettuale e politica così forte con altre donne o con altri uomini con cui ho lavorato. Spero di ripetere più volte l'esperienza, perché Veronica ha una capacità visionaria mai sradicata dalla concretezza della visione politica. Per me quello è fondamentale. Tutti i linguaggi che attraverso, dalla scrittura a questa esperienza teatrale, adesso per me hanno sempre una prospettiva politica. Quanto quello che faccio può cambiare quello che ho intorno. E devo dire che trovare un artista che ha una così forte presenza sull'attualità per me è un'esperienza rara e molto, molto arricchente. Oh, Quasi Grazia, in scena al Teatro India, e poi? E poi abbiamo molte date, abbiamo Bellaria, abbiamo Casalecchio, insomma abbiamo diverse date, si trovano tutte sul sito del Teatro di Sardegna. Speriamo di portarle in giro il più possibile, e sempre con cui siamo riusciti a farlo fino adesso. Devo dire che il pubblico ci ha tributato molto affetto, e quasi sempre sold out, quindi questa situazione abbiamo. Grazie a Deledda la stiamo restituendo a chi si sta fidando di noi. Michela, oltre a questo spettacolo teatrale, su cosa sei impegnata? Che progetti stai seguendo? Beh, il mio lavoro, che è quello di scrivere, quindi in prospettiva c'è un romanzo nuovo. Io sono molto lenta nello scrivere, io scrivo un romanzo ogni 7 anni, non ho, credo che le cose ben fatte richiedano molto tempo, almeno per me è così, quindi tornerò a scrivere quanto prima, spero entro la fine dell'anno di avere un romanzo pronto. Bene, allora io ti ringrazio, ricordiamo Quasi Grazia, in scena dal 30 gennaio al 4 febbraio al Teatro India a Roma. Michela, un abbraccio, un in bocca al lupo, e ci si vede a teatro.